uscito, ma dove sei? A Monte, a Basso Acabonate. Ti avevo visto dal segnale, non ti preoccupare. In via Umana. Cappa, ma questa si affondò scala. E già passo a trovarti da fuori. Sono ancora qua, già, un problema. Al da produttore, sì. E quello di mio padre, un po' di ricette, dai. E beh, come... come la terra a fondo scala? Vabbè, sempre a fondo scala tu arrivi, ma la scritto. E beh, non sono a casa, Allora, io ti ho il microfono pure, il... l'altro, il Demi 1000 mi si è fritto del tutto. Ma sai che questo mi piace? Questo è il numero 95, della Z5. Cavolo, funziona un bel pezzo. L'ho messo quasi al minimo, Funziona molto molto molto bene, cioè passa a trovarmi, non c'è problema. Sai qual è il problema? Questo qui, senti. Ah, che fischia, sei anche troppo. Vabbè, deve essere che l'apparato è stato leggermente... capito? Che apparato? No, già va bene, qui qua c'è fortissimo, sei in chibi, già lo credo. Dai, che c'è stato il medico, è venuto a trovarti, dai. Non ti preoccupare, se non esco già sono qua, va bene. Sì, il capo di Roger. Molto bello comunque, se non me lo vado a cinque, vai, però. Hola, canale 10. Il portatilino per caso, portate di mano. Portatilino quello più o meno. Capo, ho preso il microfono dalla Cina e ancora non l'ho provato. Non prendo, no? Tanto lo prendo anch'io, quindi lo proviamo. Ci sei già? E io, sì. Che canale andiamo? 846-068. No, il canale, dimmi, che adesso l'ho messo sul canale, non so, non ho la frequenza. Non lo so, canale 8. Io sono 8, guarda che mi senti, canale 8. No, non ti sento. No, forse non arrivo da te, può essere. Sul canale 7 c'è gente, li senti quelli che stanno parlando sul canale 7? No, aspetta. Dimmi, che frequenza mi hai dato tu? 446, te lo segno. Aspetta, l'abbiamo parlato assieme. Com'è la frequenza? Non ti sento, la frequenza com'è già? 446-068, mi pare che sia clave. Provo a metterlo in manuale, dai. Niente, ti sto chiamando. Non ti sento. Io ti sento più, ma ti sento. Non è che lo squelci, no? No, io ti sento. No, io no. Cavolo, l'altro giorno è entrato a Marino, mi sentiva benissimo, giù a Ottava, cazzo, non arrivo qui a Sassari. Sai che provo l'antennina con l'antenna sua? Nulla, negativo. Ecco. non so cosa dire. Qua non mi illumina manco la luce quando muovo, quindi proprio non le stai uscendo. Io basso ma ti sento, cioè si sente un po' più alto del QRM, però ti riesco anche a capirti bene. Non lo so, che antenna stai usando? L'antennino suo di gomma? Allora, il tuo antennino di gomma. Ah, non ne hai tu antenna esterna? No. Io sto usando quella, ho provato anche con l'antenina in gomma e niente, peggio che mai, invece con l'antenina esterna che c'ho sempre qui nella finestra, vai, niente di che. Con quella ti sento invece. Ma guarda, non so cosa dirti, fra, io non ti ascolto molto niente. Dove ti dico, purtroppo è così. Non riesco a provare questo microfono, non so neanche se funziona. Vabbè, la portante la inserisce, si accende una spia rossa nel microfonino, però non so come esce, dai, c'è una porcheria, se... Vabbè, già l'ho pagato poco, quindi. Io ce l'ho un microfonino piccolino da buttare, ma esce male di radio, non mi piace. Dice che è cupo. Sì, allora sarà uguale. No, questo qui è di marca questo qua. L'ho preso da, come si chiama, da AliExpress. Ci ha messo un paio di mesi, mi sembra, arrivare. Però, addirittura, anzi, è arrivato prima di quello che loro avevano previsto. Dai, mi sembra doveva arrivare il 22 di marzo, poi ci è arrivato l'altro giorno. No, io praticamente l'ho preso da fuori lo stesso, ma... Alla fine ci è uscito male, non ho capito la parte finale, l'hai preso dove? Midland. Ah, quindi di marca, no, questo non so neanche se ne abbia marca, ma è piccolissimo, è proprio due dita. Sopra c'è il ponticello per attaccarlo, una specie di ponte, dai. Sicuramente lo puoi agganciare. E poi c'è la molletta per verificare, non so, la camicia o la giacca, dove lo vuoi attaccare. C'è come il mio, dai, dovrebbe essere come il mio. Beh, io ne ho anche uno della Midland che ci poteva attaccare al portatile normale, quello della 27, capito? Questo c'ha due cinoti, uno da 3,5 e l'altro più piccolo, non so quanto sia. Sempre serio, tutti e tre serio sono. Due spinotti uno a fianco all'altro, là. E uno è per parlare e l'altro per dicembre. Sì, più o meno così, perché dal microfono puoi anche ascoltare, hai ragione, sento anche dal microfono. Non è che non si apre a fare nessuno, forse è Natalino che è vicino, a me lui dovrebbe sentirmi. C'è propagazione. Poco fa ho chiamato questo tipo parlava in italiano, invece era Lanzarote. Mi ha dato un segnale di 995, la radio 5 mi ha dato. Dov'era? Lanzarote, alle Canarie, l'isola delle Canarie, quindi oltre l'Oceano Atlantico, qual è? Cappagamba, sì. E ho fatto le Tenerife io l'altro giorno. Siamo lì, sono attaccate, sono un bel po' di isole. Come si chiama quell'altro? Sono andato a Fuerteventura, ma è sempre lì. Sono tutti isolotti uno vicino all'altro. Insomma, quando ci abbiamo messo ad arrivare giù? Un'oretta forse. Fuerteventura è sottile, però è lunga, e poi cambia dal nord, che è vulcanica, alla parte invece sud, che è tutto sabbia, a parte di Andia. Nelle strade era pieno di capre selvatiche che scoppiavano dal lato che avevano, non riuscivano neanche a camminare. E poi mi ricordo i scoiattoli, pieno di scoiattoli per le strade. Cos'è questo rumore? E stai ascoltando più o meno, invece c'è qualcosa. No, pensavo che stessi uscendo male, di nuovo, dopo scarica. Invece era il rumore del PMR, io lo spento. No, io ho messo lo scarico per scanalizzare i canali dove c'è gente, ma non penso che ci siamo sottratti. Ma il PMR sento, non so se è Bricomen, pure sentivo quelli del loop di quello dei vaccini quando era giù, sentivo quello dei parcheggi. Ah, io lo sentivo davvero, perché lo so, davvero a fare il vaccino era accanto a uno di quelli che diceva, guarda che sta entrando una macchina, una targata, cosa, un attimo, eccetera eccetera, farlo entrare e farlo parcheggiare perché c'ha il vano. Sì, quello lì, quelli del centro vaccinale che c'era prima giù a Pedanieta, alla promocamera. Adesso qua non lo so, forse qui non c'è bisogno di parcheggiatore. E prima era un casino, doveva avere qualche persona in guardia per entrare, poi non c'era parcheggio, boh, un casino io. Mi sembra la prima volta mi hanno fatto entrare, la seconda no. Ho detto avevo fretta che ero in fuga da lavoro e ha chiesto se c'era posto e mi ha fatto scendere giù una volta, invece la seconda sono dovuto andare a piedi, parcheggiare su da Vestis, mi sembra ho parcheggiato, e poi sono sceso a piedi. Era un macello, io lì ne ho fatto due e uno l'ho fatto in via Sulcis. No, io il terzo non l'ho fatto perché ho passato il Covid, quindi ormai mi scade a luglio, mi sembra, il Green Pass. Ma lo toglieranno adesso, il Green Pass è quello per tutto. Chi non ne ha fatto più vaccino ha fatto 13. Mi senti, un po' di propagazione, sento che sì, chi non è fatto, vabbè, è passato il Covid, magari non si è fatto iniettare niente, dai, è strano, lui non si sa quando va a finire, buh, cosa vuoi dire, comunque, gente che l'ha passata forse anche meglio di lui, senza il vaccino. Ah, io grazie a te problemi non ho avuto, ma in casa, i figli, si erano presi tutti e due, ci avevano due vaccini. Dovevano fare il test, poi non l'hanno fatto perché c'era un pericolo. Come lui, come... Prima ha preso mia moglie, poi a me, dopo, perché lei ha fatto il mio nome e mi ha messo in quarantena. E quindi non l'ho preso in casa, diciamo, dopo 4-5 giorni avevo anch'io qualche sintomo. E poi mio figlio, a cascata, la catena. E il capo niente. No, c'è una mano giusta. Buonasera, a te e all'altro, Fabio. Chi è? Giovanni, così. Come ti mangiato, sto bene, ben sentito. Chi è l'altro? Già, Franco sono, forse ci siamo sentiti ieri con l'imbara mobile, però ti ascolto male di radio, come mai? E anche io, sento cracchiato. Controlla il microfono, Giovanni. Molta propagazione, però ti prendo, No, il microfono controlla, che la radio è un po' tremolante, un po' gracchiante. Una prova, cambio. No, male. Se mi sposto di frequenza ti ascolto meglio, però non lo so. Prova tu, dai Gianni. No, è uguale, anche io lo sento così, lo sento gracchiato in radio, è come se fosse attaccato e stanno male. Ho provato a scendere di frequenza, si abbassa il segnale, però la radio migliora. Prova. Tratta che ci riesci bene, basta, che ci guarda chilo che ci vede, basta, non trattarmi altro. Ieri ci ha passato lì ai pettini, mi arrivava la bamboletta proprio. E già a te credo, lui è lì. Io sono sempre uguale, ma adesso sono con pochi watt, un paio di watt. Sì, per me è sempre, poi io non sono rovinato. Un po' di abbiocco, ma io devo fare la notte, figurati, devo fare dalle 9 stasera fino alle 5, di domani mattina. Ma esterni, esternamente lavorano? Diciamo che lavorano gli altri, io però devo controllare quello che fanno, capito? Ma sei sempre fuori. Devo controllare che non facciano casini, che non lasciano qualcosa in mezzo... Bella ai piedi, che poi devo riattivare la linea, capito? Ma domani mattina devo riattivare la linea. È una grossa responsabilità. Caspita, questi di notte viaggiano, ma io devo scortare, si trasportano materiale per l'indomani, che lavorano anche di giorno, capito? Fanno i turni sia di notte che di giorno. Adesso ne ho fatto tre notti un paio di settimane fa, adesso me ne toccano 5 a Dubai, perché mi devo iniziare da domani, invece mi hanno chiamato se potevo fare anche stanotte, quindi sono 5 notti. Vabbè, sono pagati il doppio le notti, quando le fai così. E qualcosa in più, se sei in trasferta c'è qualcosina in più di trasferta, se no la maggiorazione del notturno e basta, ma non ne vale la pena qua, perché purtroppo siamo in tre, abbiamo quell'abilitazione, perché per fare uscire la macchina devo fare gli scambi, devo aprire l'FD e sbloccare la scarpa e farli uscire dallo scambio principale e metterli nella linea di Alghero, il sassare Alghero. Appagato. E che cosa state facendo? Cambiando le traversine, le traverse che ci sono? No, stanno cablando tutto nuovo, tutto l'impianto elettrico nuovo che va da Sassari ad Alghero, dai. Questa roba. Quindi ti pure di elettricità. No, io controllo e basta, anche se sì, qualcosa la so, perché a volte guardo un po' perché mi piace anche, però sono lavori che fanno loro, poi sono loro che devono certificare i lavori. No, quindi stiamo scavando paralleli al binario, mettendo o tre tubi di quelli da 100, credo sia 120, qui corrugati, oppure canalizzano, dove non possono scavare che c'è un bel roccia, allora canalizzano, mettono canaletti in cemento. Capidute si chiamano. E loro li chiamano cunicoli invece. Buonasera a tutti, ciao Gianni. Ciao, che sei Cristian? Capa di Roger. E dove sei? A che si scende di uscire? Santa Maria. E perché stai facendo così in basso di radio? Di solito ti sento sempre più in basso. E sto usando l'altro microfono, M95. No, basta. Innesca. Oioi. Sempre 95. Non ne ho più fusati che microfono. L'ultimo l'ho preso io. Cavagava. E come mai Innesca? Perché il DM1000 mi si è fritto. Come ti si è fritto? In che senso? Ma poi stavo uscendo un po' strano. Mi si è staccato un filo dall'interno, non so che filo sia. Cosa ci vuole a salvare? Sì, ma dov'è però quel filo? È un filo nero, non so di dove sia. Che cos'è che ti si è rotto? Il DM1000 cos'è? Il DM1000, il microfono palmare. No, cosa hai fatto un accordatore? Che se no io aprivo il mio e ti facevo una foto. Allora, dovrebbe essere quello nero, quello di potenziometri che io ho nell'ecco del coso. Basta che tu alzi qualcosa di simbolo che c'è sopra, ti rotoli quel nastro che c'è e poi guardi dove la saldare. Non me ne intendo io faccio il fabbro, non faccio queste operette qui. E allora mettili un punto di saldatura. Mettili una saldatura ad arco. Ad arco, non a cannello, come vuole. Ma tu lo continua, retro, come vuoi. Cito flex. Tu di basici, quelli grossi. Sì, come 8 centimetri anche. E anche avete parlato in due. Tipo di metri da elettrodo di grossetta, dai, da 6 mm. Per quei fili è indicato, per i fili del microfono. Oh Cristian! Per cosa vuoi dei tubi? Sono tutto saldatore, dei tubi. Adesso sei vicino a casa sicuramente. Io sono saldatore di elettro, ossia cilindrico, ho preso la professionale. Quindi ne gioco un poco di saldatura. E ne hai fatto? No, poche niente ne hai fatto. Ho lavorato la Montubi e poi la Montubi ha chiuso e sono entrato, ho sempre a fatto e sono entrato in una catena di supermercato a lavorare, ho fatto altro lavoro. E l'ho fatto poco e niente, si può dire. Ho fatto la prova, mi hanno passato, a parte che usavo le motosaldatrici, io non le avevo mai usate, usavo quelle elettrico a scuola. Ho un po' di difficoltà, l'ho fatta, ma all'inizio poi c'erano dei saldatori, mi hanno detto fai così così, e l'ho fatto l'esame e sono passato. Prima mi hanno fatto usare i citoflessi, ci stavi dentro con la scala tutti e tutti, saldatura all'americana. Dopo hanno fatto le radiografie, mi hanno passato, mi hanno dato tutta la prestatura e dal giorno dopo sono andato a lavorare. Meno male che hai cambiato lavoro, mamma mia, non è un lavoro sano, mi respirate tutti quei fumi. E da voi la zona industriale, poi la zona industriale vicino ai Montubi era quella dove sono entrato io, capito? Cibi Montubi. No, non la conosco. Io questi qualche saldatura l'ho fatta anch'io, mi ricordo che se ti lasciavi la camicia aperta ti abbronzava, avevi il segno dell'abbronzatura come il sole. Sì, e tipo cadono le scoglie che te le fai muovere, ti bruci da tutte le parti, perché per istinto tu vai a cercare di toglierlo, come la muovi ti bruci da tutte le parti, specie quando fai saldatura all'americana. Sì, era peggio il cannello, ma quando si andava dentro la scarpa, qualche pallina di ferro fuso, mamma mia. Una volta è entrata dentro il guanto, ho ancora la cicatrice, sempre tagliando la taglia a cannello. Scappa. E anche cannello da taglio usato, tutto. Mora, circolare, tutto quanto. Un po' tutti gli altri. Vabbè, a scuola ci avevamo tutto quanto. Preparavamo i pezzi, prima facevamo il disegno, poi non metti di là, prendevi il ferro e lo dovevi tutto rimanere a rima abbastanza e poi costruire i pezzi. Io l'ho fatto anch'io, come si chiama? Però con il professor Fretti. Hai lavorato da qui? No, ho studiato con lui. Lui era professore lì alle, alle professionali, dai. Forse è un parente di un amico mio, che è un dottore. Vabbè. Comunque si so che il padre aveva qualcosa di fabbro all'industriale. Beh, fratelli Preti erano nominati a Sassari, avevano l'officina lì salendo per Vessi, dai, per la salita lì, sulla sinistra c'era l'officina, e uno dei fratelli insegnava alle professionali, era bravo, un tranquillone, molto in gamba, e anche lui ci faceva limare, prima con la lima, come cintura da sgrosso, e poi con quelle più sottile, poi ti faceva le prove col minio per vedere se avevi limato bene, oppure con guarda piani, non so se te lo ricordi. Si chiama lima bastarda, si chiama così. Quella bastarda è quella che c'ha le, diciamo, quelle che mangiano, cioè le alette in diagonale storte, invece quella dal grosso ce li ha tipo rombi, sia da una parte che dall'altra, invece quella bastarda ce l'ha tutta in un verso, quella mangia un bene. Sì, a quelli che non c'è proprio ogni accallo nelle mani, ogni asciugata a preparare i pesci, poi devo fare bellina, a squadra, tutto l'altro. Poi dovevi fare le puntature, poi saldato, fare il conto di saldatura che non si vedesse soffiature, roba del genere, e gli avevamo fatto. Allora se mi venite a prendere il saldatore in mano, magari non so più prendere da me. Ma prima già le facevo ed era anche bravo a scuola. Avanti Cristo, ma Cristo è a chiuso. E io comunque già mi è servito perché per un paio di mesi ho lavorato, là. Ho lavorato e ti dirò che lì c'era, mamma mia, c'era gente che buttava i pesi, c'erano i cosi, come si chiamano, quelli che buttavano i pesi, ti ripuntavano, poi il saldatore doveva saldare, si fanno loro, ti preparavano perché lo buttavano, i saldatori erano tutti busati, dovevano... Perché poi la parte più brutta è puntare, che a volte ti beccava la luce, e dopo ti dice le luci, mamma mia, di notte. Come si chiama? Giovanni c'è ancora, da Pratamona. Sì, quando mi ha detto, forse questa riusciva a fare. Diciamo che i carpentieri facevano la puntatura, poi i saldatori si andavano e si riposavano il carpentino, fare le ripetute. Era un po', se la prendevano bene di calma, però erano lavori molto grossi, ti parlo che prima di saldare bisognava usare i citofress, dentro di asfondamento, fare l'asfondamento e poi riempirti alla saldatura. No, dove lavoravo io c'era l'addetto che faceva i serbatoi, saldava i serbatoi circolari, quelli per gasolio, cose varie, no? Cisterne grandi, da migliaia di litri. Partiva, mi sembra, dai 2000, 3000 fino in su, dai. Però quando saldava cosa aveva? Prima faceva i tappi con la bordatrice, per saldarli però mettevano in una specie di calandra che il serbatoio lo faceva girare a mano, cioè col piede, tu avevi un pedale, schiacciavi e il serbatoio girava e tu saldavi, capito? Ti regolavi la velocità. Ah, vabbè, sono tutti i metodi, per dire, io facevo saldature che quando saldavo si staccava la scuria da sola, perché azzeccavano bene la corrente, però l'altro industriale era diverso, c'erano le motosaldatrici, erano motori. Sì, ce l'abbiamo anche noi in azienda, una motosaldatrice, per qualche lavoro, qualche riparazione di rotaia, no? Su lungolinea devi avere per forza quella lì, però salda bene, cioè, sembra una saldatrice normale, non lo so. Sì, salda bene, ma diciamo che per regolarla era diversa. Lì regolavi la tensione e ti rendevi conto quanto la dovevi mettere, perché se facesse lo sfondamento del metallo base e poi si applicasse il metallo rapporto. Però diciamo che mi piaceva come tipo di lavoro, anche se io ho fatto tanti lavori, ho fatto scale a chiusura, perché il mio principale ci aveva, ma il mio principale, il mio professore ci aveva un'officina e lavorava la sera, c'era il socio che lavorava la mattina, la sera lavorava lui e portava di tutto, di scale a chiusura, da fare quegli attrezzi per il cammino, per le pinze, da quella roba lì. Scrivere i nomi, poi li saldava lui, a volte io li componevo e poi lui li saldava sui cancelli quando andava a fare i lavori, capito? Perché c'era lavori extra. E insomma, si usava molto materiale della scuola, faceva il colbacchione, ne guadagnava. Tipo il professore di meccanica diceva da noi che si smontava il suo motore dalla macchina, non dico tutti i giorni ma quasi, no? Quindi lui era sempre col motore rifatto a nuovo. Comunque le scale a chiocciola penso che sia una delle cose più difficili da fare, no? Le scale, fare la divisione per i gradini, per riuscire tutti uguali, non lo so. Mi ricordo il nostro principale se la tracciava la scala, non a chiocciola, la scala normale, a rampe, dai, se la tracciava sul muro. Naturalmente non la facevo da solo, la verità, il professore ci seguiva, ci faceva vedere come fare, eccetera. Prima si faceva il disegno, poi si preparava le pezze e poi si saldava. E molte volte mi ha portato anche da lui a scuola a fare, capito? Con quella scusa di provare, si faceva i lavori, dai, con la corrente degli altri, il ferro degli altri. Allora, buttava la scuola, usava, e dentro di tutto, tagliava con la sega, quella che praticamente toglie quell'attice per raffreddare il disco, quella sega particolare per il ferro. Sì, quella la sega a nastro, dai. Quello è un'emulsione, acqua e olio, un olio particolare, per raffreddare proprio la lama. La lama a un certo punto viene girata in verticale, se no lì scorre in orizzontale, però ci sono delle carrucole che la girano e la mettono in verticale per fare il taglio. Quella addirittura può scendere anche da sola, la nostra è così. Si può regolare la discesa, la velocità, e come arriva a fine corsa si spegne da sola. Sì, è così anche quella. Non lo so se esiste ancora laggiù. E vabbè, comunque, la mia esperienza me la sono fatta. Mi piaceva come lavoro, ma mi bruciavo un po'. E le prime volte quando tornavo a casa con gli occhi rossi, non dormivo manco la notte. Passavo un abbaglio, quando stai saldando, chiamo i guanti per vedere dove devi puntare. Dove devi puntare l'elettro, perché l'elettro magari tocca, ci fa la luce, ruia, ogni abbaglio. Ne ho passato notti al proprio soccorso. Specialmente quando poi tieni, lui salda, no? Tu vai a guardare, tac, ti butti, cazzo, quante volte. Sembrava che avessi la sabbia dentro, aghi. Una volta avevo messo, diciamo, le patate o la carne di cavallo negli occhi. Sono arrivato a stato e dicevo, questa carne è cotta, mi ha detto la professoressa. Dicono che la patata va bene, la buccia della patata, che fa bene a queste cose, ma meglio non guardare, perché bruciano meglio quando la salva. No, non è che lo fa per guardare, lo fa per guardare per vedere dove devi puntare l'elettro, no, tu vai a puntarlo, magari ti tocca prima del tempo. Sì, infatti mica lo fai apposta, sono incidenti del percorso, purtroppo si può fregare. Poi ci sono anche dei caschi addirittura che si fanno scuri da soli, cioè tu quando non stai saldando il vetro è chiaro, appena prende la luce diventa scuro in automatico, non li ho mai provati però. Ah ecco, e vedi, quelli lì vanno bene, io per lì dire anche a Carrello, saldato, ho saldato la ghisa, che è un po' difficile. La ghisa bolle, tu non so se l'hai mai saldata, ma bolle. Ehi, ragazzo, ho provato a saldare il collettore della moto, del motorino, della Piaggio, che si era spezzato il collettore perché avevo utilizzato la marmitta senza ancorarla col silenziatore, quindi il peso della marmitta gravava sul collettore, erano dei pezzi poi modificati, quindi molto alleggeriti, lo scarico era tutto allargato, era un po' sottile, quindi e si era spezzato. Ho provato a saldarla, ma nella mia bucheria, alla fine ce l'ho fatto tutto. No, non ho mai provato. Il cannello poi lo uso per tagliare, lo taglio e basta. Ma non è che sono bravo, taglio e boh. Io ho già qualche cane da 150 per saldare i pezzi che per poleva, ma c'era una parte che dovevamo fare a cannello, una parte dovevamo fare la saldatura cilindrica, c'erano dei pezzi tipo il rame, sollevamo, tutte queste cose qua. Non so, abbiamo un saldatore della mia azienda che è bravo. Fino a me, a volte ho saldato, cioè ho unito due rotaie una all'altra, però lì facciamo una saldatura particolare, dai. Si chiama alluminotermica, praticamente devi scaldare le due testate con dei cannelli di preriscaldo, se non ben grossi. Praticamente le testate devono diventare rosse, praticamente. Poi, anzi, prima ancora devi steccarle, quindi mettere una specie di involucro, dove poi dentro ci farai tu la colata, no? Quindi crei una specie di rivestimento in terracotta, sono delle formine già fatte, poi le stucchi in modo che non esca il ferro fuso, e poi ti prepari il crogiolo con del materiale che sembra truccio di ferro, sembra, no? Ci metti poi una candeletta, inneschi la convulsione, inizia a bollire, poi si fonde il tappo di fusione e scende tutta la colata dentro quelle scatolette lì. Trova le testate già calde, già rosse e fa una fusione. Tipo una saldobrasatura. Non lo so, quella lì si chiama alluminotermica. Adesso comunque sì, la fanno ancora, però ormai è già tutto pronto. Mio. Non devi più preparare tu la porzione, è già tutto pronto. È un barattolo, tu lo infili dentro il crogiolo e fa tutto quasi da solo. Tu devi solo preparare la steccatura, mettere in linea le rotaie, vanno messe leggermente a punta in su perché poi tende a scendere, tutte le tecniche, c'è il calibro per metterle in riga. Dai. E poi devi rispettare i tempi, perché poi va tranciata, tutto il malloppo poi che avanza di saldatura. Metti la trancia quando è a tempo suo e trancia tutto il malloppo. Non devi anticipare, se ti porta via tutto il ferro fuso, devi azzeccare i tempi. Poi una volta lo fai, vedi a occhio, dai, lo fai a occhio. E poi c'è quella scintillio invece, c'è un macchinario che prende le due rotaie, gli dà una scarica elettrica e le compenetra di 5 cm una dentro l'altra. Quella è la migliore che c'è perché è la più resistente e non ti lascia scuri. Sono saldature particolari che io non ho mai fatto, pur essendo saldatore non ho mai fatto tutti quei saldature, magari sono saldature particolari solo per la ferrovia. Sì, questa è proprio scintillio. È una specie di camion, anzi era un camion che camminava anche su rotaia, aveva carrellini, si metteva sopra il binario e camminava anche sul binario. Ha un braccio davanti con la testa saldante, tu gli metti le rotaie all'interno della testata e lui te le salda, un paio di secondi di scariche e via, ed è la più resistente. Perché ormai qui abbiamo sulla stazione di Alghero è tutta un'unica rotaia, capito? Non è più come prima che era tutta bullonata, una volata con le ganasce, ormai è tutta un'unica rotaia. E come l'hanno fatta a portarla così? No, la salda alla macchina, capito? Una mano che salda va avanti, quindi la rotaia la fai lunga quanto vuoi. Ah, ho capito, sì, ho capito. C'è tra giù pure, ho capito, sono saldata, bomba. Ho capito, come se non mette cavera la rotaia, come cavolo fa? Tagli e saldi, certo, non avrai più quel tipo di saldatura A meno che non, perché quella macchina costa un sacco di soldi, ce l'hanno le imprese, noi non ce l'abbiamo, quindi se dobbiamo cambiare uno spezzone dove c'è un consumo strano, anomalo di ferro, oppure in una curva, perché a volte la curva si consuma, l'attrito che c'è in curva distrugge un po' il binario, la rotaia, e quindi vanno sostituite, e possiamo fare le saldature, quelle che ho detto prima, quelle alluminotermiche, con la colata, dai. Se le faccio io, ad esempio. Mi uno che posso provare il portatile, mi. Come dice? Devo provare il portatile, che mi è arrivato un microfono. Mi senti tu a me col portatile da casa? Penso di sì. Qua, di nuovo, ce l'hai a portata di mano, Natali? Buonasera. Sì, già ce l'ho. Aspetta un attimo. Metti l'antenna esterna, magari, se ce l'hai. Prova sul canale 8 PMR. Mi sento la propagazione un po', mi. Anche quanto ti arriva già? La propagazione, quanto ti arriva il segnale? Ma non ho guardato la vita, però è alta qua. Qua il segnale è 0, 1, un po', oscilla, non è alta, però, ripeto, l'antenna, la mia è bassa. Marco, dimmi. Vai. Prova a chiamare sul canale 8. No, sul 7 c'è mai. Eccomi, quindi già funziona già. Funziona? Sì, si sente che mi sente bene. Natali, che frequenza era? Oh, io la riaccendo. Canale? Allora, su canale 7 mi ha chiamato lui. Però non vedo la frequenza perché ho messo i canali numerizzati, dai. Questi me lo fatti questa lista qua. Oh! Ehi! E io sono qui, mi no? A parlare lì che c'è il pronto soccorso, mi. No, ho già chiuso. Su canale 7 c'è pronto soccorso. E bisogna cercare un canale libero dove non ci va nessuno. E vabbè, l'importante è che mi sentivi, dai, la prova l'ho fatta. Hai notato differenza uno con l'altro? No, va bene, va. Non è di tipo barattolo, no? Aspetta un attimo che c'era la 50 e mi stava dicendo cose. Cosa mia, sovramodulato mia. Avanti già. No, io non ce l'ho la tabella, sempre sempre quando corrisponde. Dove averla? Se lo guardi su internet. Te la scarichi sul telefono e aspetta, guardo se ce le ho. 446081 .25. Allora sì, eravamo noi sul canale 446081 mi pare, sì. Poi canale 1 è 446006,25, canale 1. E lì c'è gente lo stesso. Bisognerebbe andare sul canale 5 magari e vedere se entra qualcuno, perché se li stiamo usando per lavorare. Ho visto che sento il 4, io sento l'1, canale 1, questa qua, 446006.25, lì sento sempre gente, tipo Brickoman forse. E lì non bisogna entrare, bisogna cercare un canale libero. Sì, oppure come si chiama? LPD, l'altra frequenza cos'è? LPD. Quello è peggio ancora, perché lì ci sono i radioamatori in statuto secondario. Insomma, qual è che possiamo utilizzare noi? E la CB. Ma anche il PMR c'era libero, era di libero uso. E vabbè, su quel canale c'eravamo prima noi e si danno i biglietti di pronto soccorso abusivamente. Però non è che ti puoi mettere a fare la guerra con loro. No, assolutamente, dai. Ci sono 8 canali, sono 8, sì. Sì signore. Qualcuno libero lo si trova, lo usano anche i cacciatori, un po' tutti lo usano il PMR, dai. Ormai è diventata alla merce di tutti. Avanti già. Io provo a chiamarmi già qua per vedere se riesci, se riesci. Provo a vedere se esci. Ma a me te c'è? Fra, ti ho chiamato già un fra, vabbè fra. infatti pensavo che stessi dicendo a Natalino, dove vuol dire a Natalino? E su che canale? Su canale 7. Cos'è che hai detto tu, Gianni? No, poi 27. Cos'è che hai detto già che non ti ho capito il PMR? Forte e chiasso. No, quando io ti ho detto proviamo sul canale 3. No, poi 27. Non avevo capito perché avete parlato insieme a Natalino, capito? Non ho un segnale fortissimo, però mi sentivo bene, dai, abbastanza bene. Mi arrivano, altra gente arriva più forte qua, non capisco, ma sono in zona magari, oppure usano antenne esterne. Infatti per chi appare chiuso, no? Io ho un portatino piccolino. Adesso provo a mettere il microfonino e ti faccio un passaggio. Vai. O ti do un'altra frequenza. Franco. Sette. Fai 5 minuti. Ok, un attimo lo piatto, dai. Dai, ritorniamo qua, dai. Ci sei? Io no. Quindi, era meglio il primo o l'ultimo che ho utilizzato? Ah, già. Era meglio quello che tu mi hai detto che era l'originale, il secondo. Quindi già, non è un granché, allora, dai, ma per quello che l'ho pagato. Sì, vabbè, ma va bene lo stesso, Sì, l'importante è che la voce sia chiara. E più che altro l'ho preso per la comodità, perché... Secondo me lo metti, ce l'hai direttamente qua sul lembo, attaccato, e non stai con questo portatile in mano, dai. E poi infatti. E più la comodità, e più senti anche vicino all'orecchio. Natali. Natalius. Ancora niente antenna, Natali, no? Prima di te c'è da piazzare, come va detto, forse non ha avuto tempo ancora. E poi ci sono sempre le solite rotture. Bravo. E dimmi? Ho stampato la lista dei canali. Ah, ok, cosa fai? Me la invii? Te la posso inviare, aspetta un attimo. Cerco il telefono. Ecco qua. Oh, io ce l'ho scritta a penna qua. Me l'avevo fatta io. Forse non ce l'ha Gianni, forse serve più a Gianni, serve. E vabbè, aspetta che gli faccio la foto. Io mi sa, non ce l'ho il tuo numero di telefono, Gianni. Me la invio io. Confermi, Gianni. Gianni. Oh, il mio non ce l'ha. Beh, ok, quindi ricordavo bene. Bravo, ho cambiato apparecchio, dai. Più forte questo, mi arrivi più forte. Già lo so, questo è un bel apparecchio, dai. È bello anche da vedersi. Sei passato da 9.30 a 9.35. Questo è un Cobra, fa molto bene. Con quanti watt è? C'è una quarantina? No, basta, è al minimo. Gianni? Sì? Mi che te l'ho inviata. Ah, grazie. Grazie, così almeno... Non posso stamparla, ma me la guardo da lì. Fa. Sta arrivando più forte di Natalino. Ma... Beh, non male, siamo alla stessa distanza, no? No, nemmeno. Natalino è più vicino. Ma vuol dire che siamo coperti? Io e Natalino non ci vediamo, vuol dire... Ancora per poco. Quello sì, appena sbuca l'antenna dal monte, guai. Quando piazzi l'antenna stampiamo lo champagne. Oggi ho preso i tirafondi, ho preso con le retine e tutto per piazzare le strappe. Ma ti lo puoi fare a Sula il travaglio? No, viene gente a darmi una mano per toglierla, poi per piazzarla già la piazzo da sola e ne l'accendo da sola come lo faccio adesso. Che abbagliato. Un libro io questa settimana. E prima dobbiamo piazzare le strappe. Una volta sono piazzate le strappe, bene, belle macciucciure. Smontiamo l'antenna. Adesso ti mando le staffe come sono. Da 6 da quanto? Come? Da 6 da 14? No, tira fondi meglio. Ah. Ma già regge il muro, sì. Non ne metto tasselli, no, se mi ne va riaduto con i tasselli, non si sa mai. No, ma c'è leggera quella tete. Ma il palo pesa. Fra questo microfono come esce? Io ti ascolto bene. Questo è tutto costruito da me, un microfono normale. No, no, bellissima, chiara, senza fronzoli. L'ecco va bene, l'apparecchio, però il microfono le ho messo la capsula, cioè l'ho rifatto praticamente, la capsula, una di quelle capsule grandi vecchie che avevo io. E dopo gli ho messo il cavo di quello morbido perché c'era il cavo duro, abbiamo cambiato il cavo, l'ho tutto rifatto praticamente. Oh, va bene, va. E il cavo dove l'hai preso? L'hai tolto da qualche altra parte o l'hai comprato? No, ce l'avevo di un altro microfono che era dismesso e ho recuperato un altro microfono. Perché io quando avevo la macchina, la porcheria, mezzo porcheria, DM95, come si chiama il microfono, della ZG, c'è questo cavo e non vale a nulla. Ti vendono comunque, io ne ho comprato uno che sarà minimo un metro e mezzo di cavo per il Ruiz, l'ho piazzato nel... come si chiama? Redondibil, ce n'è presente, non Redondibil, però l'altro tipo. Non è Diavolo Rosso, ma vabbè, non mi viene il nome. Comunque l'ho piazzato lì e posso tirarlo sino al letto tranquillamente, lunghissimo. Caspita, la macchina vuole un pochettino più lungo perché io ce l'ho sulla destra, sotto, diciamo, sotto i piedi del, sopra i piedi del passeggero, là, tutto lì. Belle Natalie. Visto là la staffa, anche a Gianni l'ho mandata come sono, due ne metto di quelle lì. Beh, sono autocostruite o già fatte erano? No, le ho comprate da Fusaro. E allora, già va bene, caspita. Invece di mettere i tasselli metto quelle barre filettate mi, col chimico, così non esce ne più. Col chimico penso che sia la soluzione migliore. E infatti poi le metto grandi quanto voglio io, capito? E allora, va benissimo. Le hai viste già? Sì, sì, già vanno bene, già sono abbastanza resistenti quelli lì. Vogliono mettere bene a piombo? Già ci abbiamo il livello. E all'antica, amico, col peso, con la... metti prima la di su, fai calare la lenta con un peso e te la da lì l'asse. Già le mettiamo a livello, non c'è problema. Quanto ne devi mettere di queste staffe, Natalì? Come? Quanto ne metti? Due? A un metro e mezzo l'una dall'altra. Vabbè che il geometra mi aveva detto 1,20, ma io le metto a un metro e mezzo, ne farò prima il barazzo che era antenna. Quelle vanno bene anche qua, anche da me credo. Eh beh, penso di sì. Perché non te lo fai un bel lavoro ora? Soltanto, forse voglio un po' più lunghe perché io ho la grondaia sopra, devo passare diciamo lo spessore della grondaia, dai. Come si chiama, del tetto che sporge. Ci sono anche più lunghe di quelle. Anche io c'avevo la mantovana, l'ho comprata lunga, di quelle lunghe, e l'ho passata tranquillamente. Sì, con quelle potrei risolvere. Una vorrebbe a quella di su, dal piano che c'è sopra di me, e una da me, dai. Vogliono 1,20 m una dall'altra, le puoi mettere anche solo da te e non ne vale più se le metti a quella distanza, 1,20 m, io le metto a 1,5 m, però anche se le metti a 1,20 m è la misura sua, che a me me l'ha detto un geometra. Sì, con quelle, una diciamo alla base della finestra e una su alla fine, più o meno alla finestra, la finestra sarà 1,80 m, 2 metri di altezza. E infatti le metti a 1,5 m lontano una dall'altra e poi ci metti il palo, col cavo lo si muove. Non lo so, muove, si muove sicuramente perché deve, da me c'è un altro piano su, più il tetto. Ma non si muovi, che due staffe così tengono, se le metti come le metto io, tengono di brutto e ci sono anche più lunghe di quelle mie. Sì, quelle mi sembrano corte per me. Quanto sono quelli? saranno una ventina di centimetri, le metti più quelle più lunghe, magari il doppio, 40 centimetri, e sono belle lunghe. Ci stanno due tasselli per ogni staffa. Qui vorrà almeno una cinquantina, credo, guardando com'è il ferro per stendere, che sporge almeno 50 centimetri, e l'antenna la mia è su quella punta lì. Te le scegli, ci sono da fusare, le scegli, staffe serie, gli dici. No, ma per quello, cioè, potrei anche farle in officina, vai. Se te le fai tu è meglio, almeno le fai come vuoi tu. Sì, non è quello, è che devi mettere sulla facciata, capito? Poi c'è adesso proprio attaccata al ferro che c'è già, quindi devi fare quattro buchi e metterci il chimico. E infatti io ho preso le rettine e la barra filettata, così le metto lunghe quanto voglio io. Tanto quel muro è grosso, ma da quanto era? 60? Già è lungo. Si scegli più o meno due pietre che coincidano, due massi che ci puoi mettere i tasselli che coincidano in verticale, sia uno che l'altro. Sì, adesso vediamo un po', dai. Ma avanti già, Gianni già non ha problemi, c'ha il tetto. Terrazzo, io ci passeggio sotto. Oh, siamo sfigati noi. Infatti, lui ha la fortuna che ha il terrazzo. Ma la può mettere anche tipo ombrellone lì. Lei viene nel capo di Vantornati per rifare tutto il palazzo a nuovo. Ma con 110? Allora. Ma vogliono rifare il tetto, tutto qua. Tutto, comprende anche l'isolamento del tetto e del terrazzo. È una cosa buona, cioè tu pensi che ti fanno tutta la facciata, il tetto gratis. Cioè dove si è mai visto una cosa del genere? Non è gratis. Perché il 110 non lo danno per la facciata, ti danno l'85, l'80 se non mi ricordo. No, se tu fai il capotto e metti l'isolamento termico, lo stanno facendo dei miei amici lì a Alghero, ancora non ha fatto il tetto, ha fatto solo diciamo, i muri esterni. Dentro casa è salita la temperatura di 4 gradi già, da quando hanno montato i pannelli isolanti esterni. Cappagata. Sì, ma qua voglio cambiare finestre, tutto qua. Tutto cambiano, perché ho preso, come si dice, nel progetto, finestre di ultima generazione, quindi con vetri, con di quelli termici, proprio, non vetrocamera normale, sono vetri proprio che dentro c'è una specie di gas che è isolante, sono ancora superiori al vetrocamera normale. Cappagata. Vabbè, adesso vediamo. Vabbè, mettermi in casa gente esterna, no? Non mi piace assai. Ma a parte che il palazzo ne trae beneficio sia in valore che in salute, perché, ripeto, caspita, ti fanno tutta la facciata nuova, mettono i pannelli, mettono la rete, poi posano l'intonaco, i pannelli vanno tutti tascellati a muro, sono un bel lavoro. E poi fanno addirittura anche il terrazzo sopra, isolato sempre. E se sei all'ultimo piano, ne hai risparmio. Certo. Ah, e poi aumenta di valore perché invece di essere classe energetica bassa diventa una classe energetica alta, quindi aumenta anche il valore dell'appartamento, del tutto il palazzo. Lo so. Ci sono i pro e contro, andare avanti a Natalia. Ci sono anche i canali e le PD qua. Una giovane si chiama Mariana e lei ha. E quindi adesso mi stampo anche quelli. Quelli mi sembra che sono 140 di frequenza, 144, dov'è? 433. Sì, sempre lì sono. E invece i PMR? 4,46. Ah, sempre 4,40, 4,30, ho capito. Invece 145 sono frequenze radioamatoriali, dai. Lo so. Bene, me la dimentico sempre. Sagonca, già. Anche io li sapevo tutti a memoria, le frequenze vanno veramente di prima. Tutte le sapevo. Non ho mai avuto proprio memoria. anche a me sta venendo un po' di abbiocco, come è ancora nuda, mamma mia. A volte sai cosa mi succede? Vado a prendere una cosa, a provarla e non mi ricordo che cosa devo prendere. Cazzo, ci penso, torno indietro e proprio nel ricordo. E a me me lo fa il computer, devo fare un lavoretto, non so, una ricerca, qualcosa, accendo. E beh, cosa devo cercare? Buh, spegni tutto di nuovo. Sì, ti succede. Un principio d'Alzheimer deve essere. Di fatto di fabbrica deve essere, mamma mia. Dice che comincia così, sai, dimenticate le cose, ma io mi ricordo cose di quando ero bambino, ma per dire a volte mi capita appunto.